Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette minuti, inizia la prima puntata di Focus Economia della settimana e allora i temi di questa giornata economico-finanziaria, ricorderete, insomma, tra il 5 e 6 aprile di 2 anni fa, alle 3.32 del mattino per la precisione, quasi 6 gradi della scala Richter rasero al suolo l'Aquila. È il giorno questo in cui faremo anche il punto, per quello che riguarda chiaramente l'aspetto economico, della ricostruzione e soprattutto delle spese, di quanto ricostruito e quanto sia in ritardo. Al di là, lo dico subito, delle polemiche pro ricostruzione terremoto, quindi sostanzialmente pro governo, o contro la ricostruzione del terremoto, quindi contro governo, non ce ne frega nulla. Andiamo a vedere quello che è successo e quello che è stato fatto con buona pace della politica. Ancora, per quello che riguarda i temi, apriremo con le dichiarazioni di Giulio Tremonti, ministro dell'economia, da Cernobbio, poi leggermente corrette sulla nuova IRI, la nuova Mediobanca. Ancora, nella seconda ora del programma, ci occuperemo invece dei dati forniti dalla banca dati del fisco, e banca dati che in questo caso non va a vedere tanto quanto è stato riscosso, parleremo anche di quello nel 2010, ma le tasse, il livello di evasione, quindi i tassi di evasione sulle tasse, per usare un gioco di parole, dove, come già riportato da vari giornali, insomma, spicca il dato, purtroppo per molti è un dato non una sorpresa, di una differenza enorme tra l'evasione a Roma e Milano, intorno al 10%, e l'evasione al sud, tra Caserta e Messina, al 65%, praticamente al 60%. Sono quasi tutte le province del sud, incluse anche Nuoro, Oristano e Ogliastra. Questo è quello che emerge dalla banca dati del fisco, che non c'entra con quello che poi il fisco riesce effettivamente a incassare, quindi la riscossione e gli accertamenti in senso stretto. È proprio un dato statistico. I mercati, come sempre, sono invariati oggi, sostanzialmente tutti i mercati, tranne Parigi, scusate, che perde lo 0,33%, Francoforte meno 0,11%, Milano invariata, Londra più 0,2%, l'America invariata, l'euro è stabilmente sopra quota 1,42, 1,42,40, i titoli di nuovo sotto pressione, Monte dei Paschi e Popolare di Milano, di nuovo l'ipotesi di un aumento di capitale, e allora meno 2,2% per il Monte dei Paschi, meno 2,36% per la Popolare di Milano, meno 1,80% per Unicredito, meno 1,80% anche per Ubibanca, l'1,30% lo perde il Banco Popolare. C'è però l'automatica, che è molto forte, più 4,20%, Fondiaria più 2,40% come Exor, quindi la finanziaria che controlla il gruppo Fiat, Prismian più 2,25%, Saipem più 1,70%, Pirelli più 1,40% come Finmeccanica, l'1,20% lo guadagna Tods e anche di Assorin, l'1,1% e rialzo di Enel ed A2A. 349-238-6666 per i vostri sms. Riusciremo oggi anche a fare quello che non siamo riusciti a fare venerdì, e cioè raccontare una storia di successo, la più grande commessa mai ricevuta da un'impresa italiana all'estero, 3,5 miliardi per costruire una diga in Eritrea. In Etiopia, la commessa l'ha vinta il gruppo Salini Todini Costruzioni, 10.000 tra dipendenti diretti e indotto, il numero di occupati che questa diga, le costruzioni di questa diga genererà in Italia. Rapidamente le notizie in breve. Volete sapere perché non intervistiamo Rita Dalla Chiesa per l'Aquila? Perché tendiamo ad avere ospiti veri, insomma, magari che dicono cose non condivisibili, ma veri. Gli altri mercati, allora, partiamo come sempre dall'oro e dal petrolio. Oro poco mosso a quota 1429 dollari l'once, il petrolio apre a 108,09 dollari a New York, quindi forte anche a New York. Sono sostanzialmente tutti i rischi geopolitici a tenere in alto le quotazioni sia del petrolio che dell'oro. La benzina inizia ad avere invece a incorporare il primo aumento dell'accisa, quella fatta per pagare il fondo unico per lo spettacolo, ne abbiamo parlato a lungo. 0,71 centesimi, è un'accisa mobile da qua al 2014, quella che finanzierà gli interventi nel settore cultura, per cui il primo aumento dovrebbe arrivare a fine giugno, 0,71 centesimi, con un aumento del prezzo alla pompa di 0,90 centesimi, perché si applica l'IVA, quindi oltre il danno la beffa. E adesso un caso che farà forse arrabbiare qualcuno, dovrebbe far arrabbiare soprattutto gli inglesi e chi ha a cuore l'ambiente. Perché lo dico? Perché insomma il disastro creato dalla piattaforma Deepwater Horizon della British Petroleum nel Golfo del Messico ce lo ricordiamo tutti, un disastro epocale. E comunque British Petroleum tornerà nel Golfo del Messico, si prepara infatti a riprendere le trivellazioni in acque profonde a un anno dall'esplosione a bordo della piattaforma appunto Deepwater Horizon. E fin qua già un po' di perplessità, ma l'incidente, che ricordo causò la morte di 11 persone ma fece fuoriuscire 5 milioni di barili di petrolio nelle acque del Golfo. E questa è la prima notizia. Seconda notizia, che a mio avviso è ancora più inaccettabile, è che nonostante l'incidente, nonostante il crollo del titolo, ricorderete, in borsa, il numero uno della Transocean, che è la società indicata da British Petroleum per gestire quella piattaforma, si chiama Steve Newman, pensate, ha ricevuto un bonus di quasi 400.000 dollari, oltre a un aumento dello stipendio che già oggi vale 6 milioni di dollari. Volete sapere com'è che ha giustificato la BP questo aumento? Beh, dice: nonostante la tragica perdita di vite umane, il 2010 è stato il miglior anno nella storia della compagnia nel campo della sicurezza. Io non lo so. Si direbbe in inglese the face like an arse, però insomma, per chi vuol capire, incredibile dire che è stato l'anno migliore della compagnia nel campo della sicurezza. Steve Newman, complimenti, 6 milioni di dollari più 400.000 dollari di premio, complimenti anche a tutti quelli invece che subiranno il danno di 5 milioni di barili di petrolio nelle acque del Golfo. Ma non è finita, perché oggi partiamo subito con la bile in questo programma. Goldman Sachs, non a caso tornano tutti i bonus miliardari o milionari, per essere in euro, pre-crisi, anche perché sono tornati tutti i giochi pre-crisi, CDS, leva, addirittura strumenti finanziari garantiti dai subprime. E infatti il numero uno di Goldman Sachs, Lloyd Blankfein, ha avuto raddoppiato il suo stipendio dalla Goldman Sachs. Nel 2010 guadagnerà 19 milioni di dollari ed è stato deciso nonostante gli utili della banca di Goldman Sachs abbiano fatto un meno 38%, e anche nonostante l'opinione pubblica americana sia molto contraria a questi bonus d'oro, e le pressioni di Washington si erano fatte sentire sulla comunità finanziaria, che se n'è fregata bellamente, è andata avanti, prima ha creato il disastro, poi l'ha scaricato sull'economia, adesso torna a goderne. Tra l'altro io ricordo che Goldman Sachs ha ricevuto 10 miliardi di dollari di aiuti, se no saltava per aria durante la crisi, e poi ha beneficiato anche del salvataggio da 70 miliardi di dollari del colosso assicurativo AIG, verso cui Goldman Sachs era fortemente esposta, per cui se fosse fallita AIG ci rimetteva altri miliardi Goldman Sachs. Quindi il grazie ai contribuenti americani è raddoppiare lo stipendio a Lloyd Blankfein. Nel frattempo la Banca di Francia ha accantonato 1,7 miliardi per fronteggiare un'eventuale crisi finanziaria. Poco fa ha parlato il governatore della Banca d'Italia Mario Draghi, ha detto che occorre che sia aumentata la comunicazione tra le varie banche centrali e che la stabilità monetaria è un valore, che è un patrimonio comune e fondante di tutta la cittadinanza europea. Una buona notizia invece arriva dai nostri conti pubblici, perché il dato di oggi dell'Istat, il rapporto deficit-PIL, è calato di quasi un punto percentuale, cioè dal 5,3% del 2009 è sceso al 4,5%. È chiaro che il 4,5% è ancora ampiamente sopra il 3%, considerata la soglia massima da Bruxelles. Però insomma il calo c'è stato, è migliorato soprattutto nell'ultimo trimestre del 2010, il rapporto deficit-PIL è sceso al 3,8%, sono calate dell'1% le uscite di cassa, mentre sono aumentate dello 0,9% le entrate. E infatti sabato scorso, durante il suo intervento al workshop Ambrosetti a Chernobyl, il ministro dell'economia Giulio Tremonti ha negato che esistano problemi nei nostri conti pubblici. Sono vissuto tanti anni con 02, 04, tornavi a casa e ti dicevano solves, vedo. In realtà voi non capite una roba, che la Commissione Europea è un luogo non che ti impone qualcosa, lei pensa che possa imporre qualcosa a uno Stato, è un luogo dove si fanno delle decisioni comuni. In realtà sono decisioni che riflettono poi o anticipano la considerazione che i mercati hanno su un paese. I mercati guardano alla finanza pubblica ma anche alla finanza privata, fra un po' considereranno anche i debiti atomici e insomma, quindi nell'insieme noi siamo assolutamente in linea con le nostre proiezioni. Lei ha visto una manovra imposta dall'Europa per 30 miliardi? Io non ancora, ma se lei la vede mi dica, mi chiami, le do il telefono e mi informo. Le posso assicurare che non ci sono problemi per i nostri conti pubblici. Così il ministro Giulio Tremonti. C'è un ascoltatore che dice: ah, avrei un nuovo nome per la trasmissione, Focus Depressione. No, perché io sono allegrissimo, è arrivata la primavera, tornano i bonus ai manager, la finanza torna a fare quello che faceva prima. Perché? Perché essere depressi? Poi possiamo chiamarlo Focus Stagnazione, Focus Ripresina, ma depressione no. Andiamo avanti, perché? Perché il ministro Tremonti oggi, tra l'altro, in un'intervista a Repubblica ha chiarito il senso delle sue dichiarazioni di Chernobyl, in cui sembrava aver detto vorrei una nuova IRI, una nuova Mediobanca. Ha detto oggi Tremonti su Repubblica: io nostalgico dell'IRI, non scherziamo per favore, qui nessuno si sogna di tornare all'economia della prima Repubblica. Ho citato a Chernobyl l'IRI e Mediobanca, ma non ho detto che li rimpiango e voglio tornare a quel modello. Ho fatto un discorso più complesso. La competizione oggi è a tre continenti, devi competere con la Cina, oltre che con l'America e con l'Europa, e per competere devi farlo con le grandi dimensioni. E allora nessuno può negare che IRI e Mediobanca a suo tempo erano espressione di una grande industria e di una grande finanza. Non ho... Trovo veramente corretto il ragionamento del ministro Tremonti, lo dico in maniera molto trasparente, le dimensioni sono un problema per le imprese italiane, però visto che Tremonti è un ministro che conosce bene anche il fisco, forse nel piano di riforma fiscale anche una legge che incentivasse fiscalmente le fusioni, gli accorpamenti tra aziende medie, non so, riducendogli l'IRAP o riducendo altre forme di pressione fiscale, aiuterebbe o spingerebbe ancora di più gli imprenditori a fondersi. La vicenda Parmalat, ne ha parlato a lungo il ministro Tremonti. Allora sentiamo che tipo di legge presenterà il governo, viste le non perplessità ma così l'attenzione di Bruxelles, che ha detto la legge non può andare contro il libero mercato europeo. Noi non abbiamo fatto norme come i francesi, però chiederemo in Commissione Europea simul stabunt simul cadent. Noi presenteremo in Commissione Europea una legge, un disegno, un emendamento italiano identico a quello francese. Anzi, siccome c'è lo shopping legislativo, lo presenteremo scritto in francese direttamente. Quindi invece di scrivere... Siccome si può fare così, si può usare anche la lingua straniera nel linguaggio giuridico europeo, noi presenteremo al commissario europeo per un parere un testo scritto in francese. Se va bene il nostro o non va bene, simul stabunt, simul cadent. Questo è un primo punto, quindi il massimo della trasparenza, tanto che lo presenteremo in francese, quindi va bene. sette. Secondo, abbiamo una norma nuova che prevede la possibilità per la Cassa Depositi e Prestiti, che è già in qualche modo privata, di fare un fondo aperto ai privati, identico anche questo al fondo strategico francese. Simul stabent, simul cadent, assieme si sta in piedi, assieme cadiamo. Il messaggio è molto chiaro: noi faremo, dice Tremonti, una legge così identica a quella che ha la Francia, che potremmo scriverla anche in francese, shopping legislativo, praticamente facciamo un copia e incolla. Se quella non va bene a Bruxelles, non va bene neanche per la Francia; se va bene per la Francia, va bene anche per l'Italia. Sul tema è intervenuto oggi anche il commissario europeo Antonio Tajani, che è vicepresidente della Commissione europea. Sentiamolo al microfono del collega di Radio Corriere Sole 24 Ore, Nicola Filippone, proprio sulla legge che ormai tutti chiamano salva Parmalat o anti-OPA. È importante che siano rispettate sempre le norme comunitarie in materia, quelle che riguardano il mercato interno. Detto questo, io ho proposto già da tempo al commissario Barroso di aprire un dibattito all'interno della Commissione sugli investimenti extra europei all'interno dell'Unione Europea. Insomma, dobbiamo capire se gli investimenti che vengono al di là dei confini dell'Unione hanno come obiettivo un'azione commerciale di sviluppo industriale, oppure hanno come obiettivo quello di portare fuori dall'Europa il know-how europeo chiudendo le fabbriche. Questo ci farebbe perdere il know-how e ci farebbe perdere posti di lavoro. E oggi dichiarazione anche della Presidente Confindustria Emma Marcegaglia durante il roadshow che è partito oggi a Torino in vista delle assise generali di maggio a Bergamo di Confindustria. Ha detto la Marcegaglia: non ho nostalgia dell'IRI, ed è il giudizio può essere anche positivo, perché c'era un momento in cui bisognava ricostruire e quindi l'IRE è partita in maniera positiva. Il lascito è stato però drammatico: imprese politicizzate, grandi perdite, manager che sussidiavano la politica, politici che nominavano i manager delle aziende. Però sulle nomine di oggi, cioè confermato amministratore delegato dell'ENI Paolo Scaroni, la presidenza invece del neo entrato Giuseppe Recchi, all'Enel confermato amministratore delegato Fulvio Conti, alla presidenza anche qui un neo ingresso Paolo Andrea Colombo, Infimeccanica invece Pierfrancesco Guarguaglini lascia la carica di amministratore delegato a Giuseppe Orsi, mantiene quella di presidente. Interna invece nulla cambia, cioè Flavio Cattani amministratore delegato e Luigi Roth presidente. Dicevo, su queste nomine la Marcegaglia ha detto: per quello che ho visto mi sembrano complessivamente positive, perché c'è una continuità su alcuni manager e amministratori delegati che mi sembra abbiano dimostrato capacità di gestire secondo logiche di mercato queste grandi aziende, ma ci sono anche alcune innovazioni sulla presidenza di due grandi imprese con l'introduzione di due giovani capaci e di profilo internazionale. C'è chi suggerisce di chiamare questo programma Focus Populismo, mamma mia, quello non lo so, è più difficile da contestare, vediamo come butta adesso, visto che senza populismo, spero. Parliamo di 2 anni fa quasi, ossia del terremoto che ha raso al suolo praticamente l'Aquila e molte delle aree adiacenti. I morti furono 308, i feriti circa 1600. A 2 anni dal sisma, vediamo di fare il conto, sono 37.700 le persone ancora assistite, 15.000 in meno rispetto al 2010. Poco meno di 23.000 risiedono nelle 19 new town edificate dalla Protezione Civile, mentre è ancora in forse, non lo so, ma come è di là da venire sicuramente il ripristino del centro storico dell'Aquila e il rientro anche dei suoi abitanti. Dicevo, 23.000 persone risiedono ancora nelle 19 new town edificate dalla Protezione Civile, circa 13.000 persone beneficiano del contributo di autonoma sistemazione, sono 200 euro a persona al mese. 1.328 vivono ancora nelle strutture ricettive abruzzesi, quindi gli alberghi e le caserme. Oggi il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Gianni Letta ha detto: non è vero che all'Aquila c'è una situazione di stallo, di rinuncia, né che ci sono tempi biblici per la ricostruzione, non nego i problemi, avremmo voluto fare di più, ma la rappresentazione che viene data dalla stampa è spesso molto diversa dalla realtà e ha quindi difeso l'operato del governo. Devo dire che insomma, da Gianni Letta non ci poteva aspettare altro se non la difesa del governo. I piani per la ricostruzione dei centri storici delle città spettano ai sindaci, ma il piano di ricostruzione dell'Aquila ancora non c'è. I cittadini devono sapere cosa verrà da qui a 10 anni. Serve un piano di ricostruzione che dia una visione unitaria della città e alla città e ai suoi destini. Lo ha detto il presidente della Regione Abruzzo e commissario delegato per la ricostruzione Gianni Chiodi in conferenza stampa oggi assieme appunto a Gianni Letta. Vediamo quanti soldi sono stati messi per l'Aquila. Allora, i fondi stanziati per la ricostruzione nelle varie voci erano complessivamente 14 miliardi. Però lo stesso presidente della regione, Gianni Chiodi, a novembre 2010 aveva detto che erano arrivati, cioè che in cassa c'erano 3 miliardi. Sappiamo cosa succede di solito, si stanziano i soldi, però prima che questi soldi diventino effettivi può passare del tempo, vale anche per le opere infrastrutturali. Il governo dice ci sono 10 miliardi per questo, però finché il CIP non li sblocca, i soldi sono solo sulla carta. Allora, da un punto di vista strettamente economico, sul fronte delle tasse, dopo che le tasse sono state sospese per tutta l'area terremotata per 15 mesi, da luglio 2010 si è ripreso a pagare le tasse, quindi dal prossimo novembre dovrebbe iniziare il versamento delle tasse sospese, perché non è che non le pagheranno, le hanno avute solo sospese nel pagamento. E questo mette in agitazione gli amministratori locali, che chiedono invece una zona franca mentre fanno i conti con spese grosse. La nostra Raffaella Calandra è andata all'Aquila in questo fine settimana, quindi prima delle celebrazioni, o meglio della ricorrenza, perché non c'è una beata niente da celebrare, e ha cercato di capire come stanno le cose, soprattutto in questo caso da un punto di vista dei soldi spesi, soldi mancanti per la ricostruzione finale. Io sto aspettando di tornare a casa mia, quindi lo Stato perché mi sta pagando l'albergo, spende tutti questi soldi per fare che? Ci avrebbe aggiustato non solo casa mia, ma tutto il quartiere. Sprofondata nel divano, la signora Rosa fissa la TV. Da 2 anni la hall di questo albergo ha sostituito il suo salotto e il vuoto di giornate lunghissime ha preso il posto di ore scandite dal lavoro perso insieme alla casa e alla città. 2 anni dopo il terremoto la signora Rosa è infatti una delle 1112 persone ancora ospitate negli alberghi, una voce che pesa ancora molto nel bilancio, così 24 mesi dopo il sisma. È da questi conti che il sindaco dell'Aquila Massimo Cialente vorrebbe ripartire con una nuova linea, ridurre le spese e concentrarle su una ricostruzione pesante non ancora avviata. Abbiamo 11.093 persone che sono in autonoma sistemazione, sono 200 euro a persona al mese, negli anziani diamo 100 euro in più. Abbiamo ancora 1.112 persone negli alberghi e ognuno di questi costa 19.200 euro l'anno. Io sono convinto che se avessimo fatto un intervento H24 sulle case dell'ATA, le case popolari, a questo punto avremmo sistemato questi 1.112 e soprattutto avremmo tirato fuori anche le persone che sono ancora dentro le caserme, che sono 254. Allo Stato, oggi, al di là delle New Town e del piano case e dei MAP costruiti, noi stiamo pagando sotto vari aspetti 1.573 persone che sono in casa che paghiamo come protezione civile l'affitto, 11.093 sono in autonoma sistemazione, il mese di marzo è il mese che abbiamo pagato meno, sono 3.600.000. Ma a novembre sono stati 11 milioni. Sulla sua scrivania il primo cittadino ha pila di documenti, carte e fogli sulle spese affrontate, gli affitti degli uffici pubblici, i contributi per la popolazione, i costi per le demolizioni, i 3 milioni per gli edifici lievemente danneggiati che stanno permettendo a 9.000 persone di rientrare nelle case e poi ancora i 596 milioni come somma totale per le pratiche di ricostruzione ammesse ai contributi. E da ora al municipio potrebbero arrivare anche i primi progetti per il centro storico, tutto puntellato, per gran parte ancora sbarrato e soprattutto deserto. Sia all'Aquila tutti riconoscono che l'emergenza, con la sistemazione per 15.000 persone nelle New Town, è stata gestita bene. Ora è il ritorno alla vita che la città rivendica, per un centro dove esistevano 1.200 tra negozi, artigiani e piccole imprese, e che ora è invece un susseguirsi di insegne spente, mentre la disoccupazione sale dal 7 all'11%. 2 anni dopo il sisma ci si immaginerebbe di vedere gru spuntare dappertutto all'Aquila, ma i cantieri sono pochi e c'è il paradosso che da una parte alcune imprese locali mettono in cassa integrazione degli operai, dall'altra centinaia di domande da tutta Italia arrivano per partecipare agli appalti. Noi ormai andiamo per appalti, 60 giorni, ci sono i ricorsi. L'Istituto Autonomo Case Popolari ha fatto una gara appalto per le B e le C, 540.000 euro di lavori. Hanno esposto 540 imprese. Perché? Perché questo è l'unico posto dove c'è lavoro in Italia in questo momento. Inventiamo un altro meccanismo. Qua è cascata una città e se si vuole costruire l'Aquila bisogna avere gli aquilani. Quello non è partito per niente. È la famosa ricostruzione economica e sociale, sulle quali c'erano i soldi, quelli mai arrivati. Quanto vi era stato promesso? Allora, il CIPE destinò al terremoto Abruzzo 4 miliardi, di cui 3 miliardi diluiti 2010-11-12 per la ricostruzione e circa 1 miliardo per la ricostruzione economica e produttiva. Però, purché il commissario, che allora era Bertolaso, certifica che con i 3 miliardi riesce a ricostruire tutta l'Aquila, è una butade. Per cui questi soldi sono stati sempre fermi, adesso credo non ci siano più. Fra l'altro il Presidente del Consiglio, la sera dell'addio della protezione civile, la festa fu il 29 gennaio 2010, disse a me Chiodi: la settimana prossima ragazzi venite a Roma e si parte. Invece non si è partiti. Quanto avreste bisogno per un rilancio economico, immagino soprattutto da destinare anche alle aziende medio piccole? Noi abbiamo bisogno della famosa zona franca, ci è stata promessa. Noi proponiamo anche il credito d'imposta, cioè chi assume una persona a tempo determinato diamo un credito d'imposta. Se la maggior parte delle multinazionali ha rifatto i propri stabilimenti danneggiati, alcune sono andate via da una città anche non semplice da raggiungere, e lo stesso è successo per un altro settore dell'economia, quello dell'università, dove gli iscritti che attivano tutto il circuito degli affitti come dei locali sono passati da 27 a 20.000, come questo studente. C'è una parte che è abbandonato per vari motivi, non so, però non tutti quanti sono riusciti a trovare una casa qui, una sistemazione. Io da qualche mese a questa parte sono riuscito a ritornare, per un anno e mezzo sono dovuto stare lontano. Ultimamente sembra che si sta muovendo qualcosa, però c'è ancora tanto da fare, perché si rischia di perdere un grosso patrimonio qua. Un patrimonio come quello artistico sparso su un centro storico di 170 ettari. Al G8 molti paesi promisero la loro generosità, alcuni, dal Kazakistan al Canada, dall'Australia al Giappone, l'hanno mantenuta, altri no, come l'America di Obama o la Gran Bretagna. Quello che più di tutti non fa mancare il suo sostegno è la Germania, che ha già speso 6 milioni direttamente o attraverso proprie ditte per la frazione di Onna. L'ha adottata e sta curando anche la ricostruzione con propri tecnici, come l'ingegnere Antonello Ricotti. L'ambasciata tedesca, proprio in occasione del secondo anniversario, il 6, presenterà il master plan, che è tutta la ristrutturazione dell'intero territorio e soprattutto il piano di ricostruzione. Per l'Aquila città un piano così ancora non c'è, e il silenzio del decumano senza vita rimbomba in quello delle New Town senza storia. Grazie alla nostra Raffaella Calandra per un approfondimento tutto economico. Tra l'altro lo potete risentire tutto il reportage, non solo questa parte economica, nei GR di domani in Italia in Controluce e sabato in Storiacce. Lo dico perché questo programma si chiama Focus Economia, non voglio polemizzare oggi, lunedì. Ma a chi scrive peggio di Santoro, servizio rivoltante, la fotocopia di anno zero. Cos'è, il caldo? C'è l'aria condizionata se vuole. Parlate di borsa e finanza e non fate politica pro PD. Mamma mia, è caldo. Guardi, il programma si chiama Focus Economia. Qui parliamo di soldi per la ricostruzione, soldi che non ci sono, 20.000 persone che ancora 23.000 persone che ancora risiedono nelle New Town. Quello che è stato fatto l'avete sentito, quello che non è stato fatto l'avete sentito, poi ognuno si fa le sue idee. Così funziona in democrazia è dalle parti nostre, non so se dalle parti sue. Una cosa va detta invece, che insomma, fortunati gli abitanti delle zone terremotate che hanno ricevuto l'aiuto dalla Germania, visto che ogni tanto critichiamo la Germania, e mi riferisco al paese di Onna, meno fortunati, lì una rampogna ci può andare, chi aveva ricevuto, avrebbe dovuto ricevere l'aiuto degli Stati Uniti e della Gran Bretagna. Non capisco perché ancora non siano arrivati i soldi promessi dagli americani e dagli inglesi. Comunque, meteo, pubblicità, poi la borsa, così accontentiamo anche chi soffre il caldo, e poi parliamo anche della Salini e soprattutto dell'evasione fiscale. Questo è un programma in cui si fa economia, finanza e anche guardia di finanza. Focus Economia. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Tra pochissimo arriveremo, come promesso, alle borse. Più 0,18%, poco mossi oggi mercati a Milano, meno niente, invariata Francoforte, meno 0,30 Parigi, più 0,18 Londra, più 0,15 l'America. Pochi gli spunti, deboli oggi bancari a Piazza Affari, UbiBank meno 2, Monte dei Paschi meno 1,80, come Popolare di Milano positiva e molto bene l'Automatica, più 4,34 e Fondiaria più 2,7%. Però, proprio per non avere solo notizie che fanno arrabbiare, come i mega bonus dei manager americani o alcune ricostruzioni ancora di là da venire all'Aquila, parliamo di una bella notizia, almeno inizio settimana. E dicevamo, quindi, una buona notizia: noi quando possiamo seguiamo le imprese italiane quando fanno accordi importanti anche e soprattutto all'estero. E allora il gruppo Salini Todini, che è il terzo gruppo italiano nel settore delle infrastrutture, che tra l'altro in questa versione, in questa formula, è nato a fine 2009 dall'unione della Salini Costruttori e della Todini Costruzioni, ha firmato un mega accordo, lo possiamo dire tranquillamente, in Africa. 3 miliardi e 300 milioni di euro, il più rilevante contratto mai siglato da un'impresa italiana all'estero. Pensate che sono 3 miliardi e 300 milioni di valore per un gruppo che ha 13.000 dipendenti, opera in 40 paesi, ma ha commesse in questo momento per quasi 9 miliardi, quindi rappresenta più di un terzo delle commesse attuali. Siamo in collegamento con l'amministratore delegato del gruppo Salini Todini, dottor Pietro Salini, buonasera. Buonasera a voi. Allora, intanto andiamo sul contratto. Per cosa l'avete firmato? Se ho ben capito, una diga in Etiopia. Sì, una diga in Etiopia, ai confini con il Sudan, una diga per la produzione di energia idroelettrica, una diga per la produzione di energia pulita. È un impianto molto importante come dimensioni, perché ha 5.250 megawatt installati. Per dare a voi un'idea di che cosa significa in termini di potenza, sono circa 6 centrali nucleari messe insieme, ecco, così diamo. Ecco, sì, che meglio le dighe delle centrali nucleari in questo meglio periodo. Certamente le dighe delle centrali nucleari. Stiamo parlando di energia pulita con rischi chiaramente molto diversi da quelli che abbiamo tutti purtroppo sotto gli occhi. I tempi per questo per la realizzazione di questo progetto e anche l'occupazione che potrà all'Italia? Ma in termini di ricaduta occupazionale abbiamo una previsione fra indotto e diretto di circa 10.000 unità nel nostro paese. Cioè 10.000 persone in Italia che tra i fornitori vostri e quelli diretti lavoreranno su questo progetto? Sì. Bene. È credo una ricaduta molto importante. Molto. Chiaramente il nostro sforzo sarà quello di massimizzare l'impiego di risorse locali, perché lo dobbiamo al paese in cui operiamo, e quindi cercheremo di fare di tutto perché questo avvenga, ma questo, nonostante questo, la dimensione è talmente importante da poter provocare questo tipo di caduta occupazionale nel nostro paese. È un contratto, come le diceva, di grande rilevanza economica, quindi ha chiaramente moltissime ditte che lavoreranno insieme a noi per realizzare tutta la varia componentistica, le macchine e quant'altro necessario per poterlo realizzare, e quindi ha una, diciamo, un effetto sulla filiera molto importante. Allora, su questo, tra l'altro, cosa pensate che vi abbia permesso? È sempre difficile chiedere all'oste se il vino è buono, ma insomma, com'è che avete vinto voi la gara? Cosa avete offerto? Un rapporto costi-benefici migliore di altri? L'affidabilità? Chiedo perché, insomma, operare in Etiopia, al confine con Sud, non è esattamente facilissimo. Ma diciamo, per noi è la vita, nel senso che noi operiamo da sempre nel continente africano e in tutti i paesi in via di sviluppo. In Etiopia abbiamo una storia più che cinquantennale e quindi chiaramente è più semplice che per altri. Diciamo, quello che abbiamo offerto di diverso, che ci ha consentito di prendere questo, così come di prendere altri impianti, è la nostra capacità di riuscire a offrire questo prodotto che si chiama Fast-Track, che è sostanzialmente la capacità di eseguire in modo simultaneo operazioni che normalmente vengono condotte in termini sequenziali. Cosa vuol dire? Che normalmente questi progetti si eseguono in fasi successivamente una all'altra, mentre noi abbiamo messo a punto una tecnica che consente proprio dall'origine, cioè dallo studio, dalla progettazione, dalle fasi preliminari, di fare tutta una serie di realizzazioni contemporaneamente, cioè eliminando tutti quelli che sono i nodi nella esecuzione di un programma. Questo consente di realizzare opere di queste dimensioni in 5 anni, dalla sua origine fino alla consegna della corrente, che è poi quello che normalmente interessa al cliente. Cioè, si fanno queste operazioni perché il paese ha bisogno di energia, quindi è chiaro che prima si riesce a distribuire questa energia e a renderla poi disponibile per i cittadini, e meglio è. Quindi su questo siamo stati capaci di portare, per dare un'idea sempre ai vostri ascoltatori, un'operazione di questo tipo normalmente dalla sua origine, dalla sua concezione a quando i cittadini possono avere la corrente, mette circa 20 anni in un processo normale, e qua ne mettiamo 5. Allora, adesso c'è il traffico, poi un'ultima domanda su questo tema di cui dibattiamo da qualche settimana, come difendere l'italianità con le dimensioni, con le leggi ad hoc, e poi la borsa 349-238-6666 per i vostri sms. Focus Economia. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, dottor Salini, complimenti appunto per la commessa a 3 miliardi e mezzo, però visto che se ne parla molto in questi giorni dopo il caso Bulgari, Parmalat e quant'altro, se lei ricevesse un'offerta di un grosso gruppo di costruzioni che vuole scalare e comprarsi la Salini Todini, quale sarebbe secondo lei la risposta migliore? Perché le costruzioni tra l'altro non entrano nel settore protetto, diciamo, nei settori strategici. Ci volesse acquisire, diciamo, mi piacerebbe poter fare il contrario, e anzi noi siamo oggi nell'ottica di continua crescita, contiamo di raggiungere obiettivi ambiziosi nei prossimi 5 anni, quindi siamo alla ricerca di nuovi fattori acquisitivi. Per quanto riguarda la domanda in generale, cioè se si è preda o se si è cacciatore in termini di acquisizioni di aziende, dipende molto sia dalla missione, sia dai mezzi a disposizione, sia dalla capacità di poterli realizzare. È chiaro che si è spesso prede quando non si riesce, per vari motivi, poi anche ambientali, ad avere quei mezzi a disposizione che consentono di realizzare dei programmi di crescita che sono indispensabili per poter realizzare valore all'interno di un'azienda. E quindi oggi noi abbiamo come società di costruzione, anche per vincere la concorrenza mondiale, voglio ricordare che noi ci battiamo in tutto il mondo con concorrenza che è coreana, cinese, indiana, quindi con paesi che hanno una grande capacità di azione e soprattutto grande supporto governativo per poter penetrare commercialmente in tanti paesi, ma chiaramente lo facciamo partendo da un paese come l'Italia, e quindi diciamo con meno di questo supporto in questo momento, diciamo, vuoi per la crisi, vuoi per altre ragioni. Quindi chiaramente quando si è aziende che vogliono crescere bisogna riuscire ad aggregare capitali, perché battere la concorrenza significa essere competitivi, essere grandi, e per essere grandi bisogna avere la capacità di aggregare altri soggetti. Ecco, quindi questo lo si fa in tutti i settori, chiaramente anche nel nostro. Quindi possiamo dire che la miglior risposta poi è la risposta di mercato? Io direi di sì, perché regole diverse ne sono state provate tante, ma diciamo poi quando si va al proibizionismo, nel senso di protezionismo dei mercati, quindi normalmente si creano delle aziende incapaci di resistere sul piano tecnico alla sfida, perché quando si è protetti normalmente ci si adegua, e quindi è difficile battere i mercati mondiali quando si è in qualche misura protetti. È chiaro che può essere una fase transitoria, nel senso che quando un settore, un segmento ha un momento di difficoltà oggettivo per crisi o per altri motivi, io penso che si possa e si debba forse intervenire con strumenti che consentano di salvaguardare, non dico la caratteristica di italianità perché questo sarebbe troppo, ma diciamo comunque il tessuto industriale di un paese, che è un fatto che va salvaguardato. Chiaramente non possono essere strumenti perenni, quindi possono essere temporanei, ecco, momenti in cui è effettivamente necessario, e poi dopodiché si deve però affrontare il mercato. Quindi solo come misura, diciamo, temporanea ed eccezionale. Grazie, in bocca al lupo, complimenti anche per questi 3 miliardi e 300 milioni di commessa vinta per la mega diga in Africa, al confine tra Etiopia e Somalia, al gruppo Salentodini, quindi all'amministratore delegato Pietro Salini. Grazie molto a voi, arrivederci. La borsa adesso, la borsa, quando la facciamo un po' zittare, sapete già che perché non è una borsa, diciamo, con grossi movimenti, ma e infatti gli indici oggi la dicono lunga, più 0,1, meno 0,1, invariati. Comunque la borsa. Più 0,18% Milano. In realtà partiamo subito con un tema con i colleghi di Radio Corriere del Sole 24 Ore, Guido Maurino, buonasera. Buonasera. Intesa San Paolo, perché ha annunciato venerdì che farà un aumento di capitale da 5 miliardi, che è una roba mica poco, per portarsi con i sui livelli dei parametri richiesti da Basilea 3. Il titolo oggi però fa più 0,95, giusto? Sì, vabbè, in realtà l'ufficializzazione, diciamo, di questa operazione arriverà solo domani, comunque ormai tutti scommettono su questo aumento di capitale da 5 miliardi. Diciamo che gli operatori ci sottolineavano oggi come con questo aumento di capitale il Core Tier 1, quindi la patrimonializzazione della banca, la solidità, se possiamo riassumere così, si porterebbe a un livello del 9,5%. Quindi molto alto. Molto alto. Questo fissa in qualche modo un nuovo standard di mercato, un nuovo parametro da raggiungere, per cui complice anche il fatto che Intesa San Paolo aveva perso molto nelle ultime 4 sedute, aveva perso l'8%, il fatto di fissare un nuovo parametro, come dire, la mette in condizioni di vantaggio rispetto a tutti gli altri istituti che oggi mette in difficoltà gli altri, cioè praticamente Intesa San Paolo ha alzato l'asticella, il Core Tier 1 è quel rapporto tra patrimonio e prestiti che tu hai effettuato come banca, alzando l'asticella, portandolo al 9% rimette in discussione lo stesso livello di altre banche che invece è più basso, il livello di Core Tier 1 di altre banche che è più basso, non a caso UbiBanca perde il 2%, Monte dei Paschi l'1,80%, di questo parliamo dopo il GR e poi i dati sull'evasione fiscale. 349-238-6666 per i vostri SMS. Focus Economia. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Berigioni. Continuiamo adesso l'approfondimento di borsa e poi passiamo ai dati sull'evasione fiscale, quelli fotografati soprattutto dalla nuova banca dati, dell'Agenzia delle Entrate. Allora, Guido Maurino, dicevamo che Intesa, pur ricapitalizzando di 5 miliardi, cioè dovendo chiedere al mercato 5 miliardi, oggi guadagna qualcosa, ma soprattutto il ragionamento che si fa è: se Intesa pone l'asta al 9% del Core Tier 1, che tradotto vuol dire del rapporto tra patrimonio e prestiti, traduco in maniera un po' brutale, allora anche gli altri dovranno farlo. È per questo che UbiBanca perde un altro 2%, Monte dei Paschi meno 1,80%, come la Popolare di Milano, Unicredit meno 1,6%, sì, è sostanzialmente e il Banco Popolare l'1%. E sostanzialmente per questa ragione, ricordiamo che anche le indiscrezioni su possibili aumenti di capitali si sono concentrate anche su Monte dei Paschi, ma per un aumento di capitale attorno al 1,5 miliardi, 2 miliardi, che molti operatori comunque giudicherebbero insufficiente per portare l'istituto senese ai livelli migliori di patrimonializzazione. Sì. E tra l'altro UbiBanca ha appena fatto un aumento di capitale da 1 miliardo, per cui evidentemente il mercato ritiene che dovrà fare un altro o che non basterà. È anche vero che ad esempio su UbiBanca, che poi è scivolata soprattutto nella parte finale della seduta, c'è anche il fattore, diciamo, che mentre delle banche che avevano perso molto la scorsa settimana, UbiBank proprio perché l'avevano fatto, aveva perso meno, per cui c'è anche questo fattore da tenere in considerazione. Allora, molto bene l'automatica, più 4,34% e bene anche Fondiaria più 2,7%, Exor più 2,4%, Prismian più 2,2%, Saipem più 1,80%, Finmeccanica più 1,5% come Diasorin, Pirelli più 1,3% come Tods, A2A più 1,1% come Enel, Intesa diciamo più 1%, Impregilo più 0,90%, Snam più 0,80%, Ansaldo più 0,70%. Le società che vedono in parte confermati, in parte rinnovati i vertici, mi riferisco Eni più 0,50%, Enel appunto più 1,11%, Finmeccanica più 1,5%, Terna più 0,35%. Saipem, ci chiedono gli ascoltatori. Novità? No, nessuna novità particolare oggi su Saipem, diciamo che poi l'attenzione era soprattutto concentrata sulle altre società partecipate dallo Stato, anche il prezzo del petrolio non giustifica particolarmente il più 1,80 visto che si è mosso non di tantissimo, un leggero rialzo oggi per il prezzo del petrolio. Ancora due titoli, da un lato tra i migliori e i peggiori in assoluto, troviamo Zucchi più 17,87% e qui c'è notizia, e sul fronte opposto Digital Multimedia Technologies meno 5,70%. Zucchi. Allora, per quello che riguarda Zucchi, oggi sono stati comunicati i risultati del 2010 e il gruppo Zucchi ha mostrato una perdita dimezzata a 20,2 milioni di euro rispetto a quella che dell'anno scorso che era sui 48 milioni di euro, è tornato anche l'utile ante imposte per 2 milioni, il fatturato è cresciuto e le prospettive sui ricavi restano buone anche per il 2011, per un'azienda che ha faticato molto in questi mesi, insomma una serie di notizie positive in arrivo proprio dai risultati di bilancio. Ultima notizia, quella che riguarda invece Fondiaria Saipem, perché qui Sole 24 Ore alcune anticipazioni e indiscrezioni Sole 24 Ore hanno pesato in senso positivo sul titolo. Sì, diciamo che lo spunto di oggi è dovuto all'avvicinarsi anticipato nel fine settimana al Sole 24 Ore della presentazione del quesito Consob con cui Unicredit chiederà all'Authority di esonerare la banca dall'OPA nell'ambito del piano di rafforzamento della compagnia assicurativa. Lo ricordiamo, Unicredit dovrebbe entrare con una quota del 6,6% all'interno di Fondiaria Sai nell'operazione di aumento di capitale da 450 milioni della compagnia assicurativa. Grazie Guido Marino di Radio Corriere Sole 24 Ore. Ultimo tema di questa puntata, la banca dati del fisco che fa una radiografia, una mappa geografica dell'evasione fiscale in Italia, non quella accertata ma quella che si può desumere incrociando i dati appunto di questa banca dati, di questo centro di elaborazione. 349-238-6666 per i vostri sms. Non posso tornare, lo dico agli ascoltatori, agli stipendi scandalosi diffusi oggi, e mi riferisco al numero uno della società che ha gestito bene, come abbiamo visto, la piattaforma nel Golfo del Messico, quella che ha riversato 5 milioni di barili nelle acque del Golfo, ricorderete il disastro della British Petroleum, ecco, il numero uno di quella società, che si chiama Transocean, beccherà, oltre a 6 milioni di dollari di stipendio normale, anche un bonus di quasi 400 mila dollari. La cosa che fa veramente imbestialire è la motivazione della società, e dice: nonostante la tragica perdita di vite umane, 11 persone morirono infatti per l'esplosione nella piattaforma, io aggiungerei, e nonostante i 5 milioni di barili di petrolio che avete gentilmente riversato nel Golfo del Messico, il 2010 è stato il miglior anno nella storia della compagnia nel campo della sicurezza. Io non lo so, veramente. E non parleremo neanche del mega stipendio d'oro a Lloyd Blankfein, il numero uno di Goldman Sachs, nonostante il gruppo bancario abbia avuto un meno 38% nell'utile e sia stato a suo tempo nel 2009 salvato da due operazioni, una da 10 miliardi e un'altra salvando AEG da 70 miliardi, salvato dai contribuenti americani, dicevo, Lloyd Blankfein l'anno scorso guadagnerà il doppio, 19 milioni di dollari. Occupiamoci dei temi di casa nostra, e allora dicevo del fisco e della mappa diffusa dall'Agenzia delle Entrate. attraverso una banca dati che ha un nome un po' complicato, DBGEO, che adesso ci faremo spiegare anche per cosa stia, ma è importante perché riesce a intrecciare a livello geografico quella che è l'evasione in qualche modo presunta, forse ho già detto qualche incorrettezza. Intanto ringrazio per averci raggiunto in collegamento il direttore vicario dell'Agenzia delle Entrate, dottor Marco Di Capo, buonasera. Buonasera. È così, cioè, voi non stiamo parlando dell'accertato, che è quello che invece compete poi all'attività di accertamento dell'evasione. Voi avete incrociato i dati tra, adesso vedremo quali, e avete scoperto dove ci sono delle incoerenze, possiamo spiegarla così? Sì, in parte è così, come diceva lei è un applicativo a più dimensioni, che tiene conto quindi di tutta una serie di dati ed elementi di natura non solo ed esclusivamente fiscale, ma anche di altro genere, di natura economica, di natura statistica, ed individua, e il valore aggiunto è che lo fa a livello di territorio, quindi a livello di provincia, quelli che possono essere i dati interessanti. Sono più di 50 le variabili e tra le altre variabili c'è anche l'indicazione di ciò che è il versato e di quello che è il tax gap, la differenza tra ciò che dovrebbe essere versato a titolo di imposta per le imposte gestite dall'agenzia e ciò che invece è effettivamente versato. Naturalmente i numeri che emergono sono numeri che meritano una riflessione, un distinguo. Molto, molto, perché lei citava giustamente il tax gap, cioè la differenza tra imposta versata e imposta dovuta sulla base del reddito presunto, che è ricavabile anche dai dati ISTAT. Voi avete incrociato anche altri dati. Esattamente. Mi ha fatto impressione quello di Prato, in cui andando a vedere la quantità di rifiuti pro capite si è scoperto che c'è una popolazione molto più alta, cioè o a Prato hanno molti rifiuti o c'è qualcuno che lavora in nero. Allora, la media del paese tra quello che viene effettivamente versato e quello che è dovuto è del 38%, cioè per ogni 100 euro versati, mi corregga se sbaglio, 38 sono evasi. Beh, qui c'è da fare un distinguo. Mi dica. Si arriva a questo importo non se si considera l'integrale versato, ma se dal versato, o meglio da ciò che si dovrebbe versare, si tolgono quei redditi che non presentano rischio di evasione, con ciò intendendo i redditi lavoro dipendente, pensione, la parte di ritenute su conti correnti, sugli investimenti in bot e titoli. Per cui sulla massa di versamenti che ci si dovrebbe attendere, il versato... Cioè tra chi può evadere, lo dico in maniera un po' brutale, tra chi può evadere, e qui non laddove la tassazione è la fonte, sia per investimenti finanziari o per reddito del lavoratore dipendente, questa è la differenza. Solo che, e poi ne parliamo dopo il traffico, questi 38, cioè su ogni 100 euro versati ne mancano 38... È una differenza che poi è una media di Trilussa, perché in alcune aree del paese si scende a 10 euro, 11 euro su 100 versati, in altre aree, e mi dispiace, sapete che questo programma non ha nessuna così tendenza a fare luoghi comuni tra nord e sud del paese, però in altre aree del paese si arriva a 65 euro su 100 euro versati, 65 non versati, e purtroppo sono le regioni che in cui è presente anche la criminalità organizzata. Dopo il traffico, l'analisi. Dicevamo allora della mappa geografica dell'evasione, che nulla c'entra, lo dico a chi scrive, con l'effettivamente riscosso, poi vi arriveremo con il direttore vicario di Capua, e nulla c'entra poi con le varie categorie di cui spesso parliamo, anche perché le pubblica solo 24 ore, quindi il reddito medio dichiarato da varie categorie, commercianti, ristoratori, medici, avvocati, quant'altro. Stiamo parlando delle incongruenze tra quello versato e quello che sarebbe l'imposta dovuta. Questa scheda, così poi la commentiamo con il dottor Di Capua, ricorda le differenze geografiche. La mappa c'è. Ora bisogna scavare tra dichiarazioni, documenti e attestati per riportare alla luce il tesoro nascosto. A fornire una dettagliata descrizione geografica dell'evasione fiscale ci ha pensato il nuovo sistema dell'Agenzia delle Entrate chiamato Database Geomarket, che incrocia una cinquantina di indicatori statistici per 107 province italiane. Ne emerge un paese ancora una volta spaccato in due, con molte conferme e alcune sorprese. Il tax gap complessivo, ossia quanto effettivamente versato dai contribuenti rispetto a quanto dovuto, è del 17,8%. Significa che ogni 100 euro versati ne vengono evasi 17,8. In realtà la situazione è peggiore, visto che se si escludono i redditi con ritenuta alla fonte, come stipendi, pensioni, interessi sui BOT, eccetera, si superano i 38 euro evasi ogni 100 pagati al fisco. Al sud si raggiungono poi vette di evasione impressionanti, come quelle superiori al 65%, rilevate in province particolarmente problematiche, come Caserta, Messina o Reggio Calabria. Va un po' meglio nelle grandi città, come Bari, Napoli, Palermo o Catania, dove il tax rate è intorno al 38%. La percentuale si abbassa drasticamente spostandosi verso il centro-nord, dove gli importi sottratti al fisco sono maggiori in valore assoluto, ma decisamente più bassi in rapporto a quanto versato. In particolare, in città come Milano, Torino, Genova, ma anche Roma, il tasso di evasione si ferma al 10,9%. Vengono classificate virtuose, inoltre, gran parte delle province del Nord-Est o dell'Emilia-Romagna, con un livello di evasione pari a circa 20 euro ogni 100 pagati. Spiccano invece, in negativo, le province di Imperia, La Spezia e Gorizia, che risultano al di sopra del 40%. Al di là delle percentuali, si conferma un valore dell'evasione stimabile in oltre 100 miliardi di euro all'anno, di cui l'Agenzia delle Entrate riesce a recuperare circa un decimo. Allora, direttore di Capua, chiariamo subito un punto. Queste differenze, a me interessa il valore percentuale, lo dico a chi scrive al 349-238-6666, perché è ovvio che se andiamo a vedere il volume, il valore in soldi, essendo il centro-nord e soprattutto il nord nettamente più ricco del sud, poi il volume è più alto al nord. Ma la percentuale è quella che indica il senso civico, perché voglio dire, evadere... È un distinguo tra volumi e intensità. Esatto, cioè, allora, perché tu, ho capito che se evadi il 60%, che sono magari 6.000 euro, evadi come volume meno di chi evade il 10% e magari però fa 10.000 euro, però il problema è che evadere il 10%, passatemi in termine, è una media che si avvicina molto all'Europa, evadere il 60% è solo una media da Grecia o da sud del paese. Allora, è un problema culturale oppure voi avete difficoltà a fare gli accertamenti al sud, dove prevale la criminalità organizzata e un sistema anche, diciamo, più difficile da scovare? Cioè, culturalmente, perché insomma hanno meno paura, se ne fregano di più, mi dica. Ma sicuramente a fattor comune c'è questo atteggiamento culturale, per cui, di cui assistiamo però a una modifica, e quindi non c'è più la considerazione del furbo che non paga le imposte. Per quanto riguarda determinate situazioni, e questo lo strumento consente di apprezzarle, certe variabili che non afferiscono specificatamente al discorso meramente fiscale sono senz'altro delle variabili che incidono sulla facilità di eseguire anche una efficace azione di contrasto, non ultima, per esempio, quella che lei diceva della criminalità. Ecco, quindi c'è un aspetto culturale, ma c'è anche un aspetto per voi di maggiore, che è più facile controllare l'evasione o fare gli accertamenti nel centro-nord? No, non è un problema di centro-nord, è un problema, come ripeto, di criminalità, perché non v'è dubbio che lì dove ci sono degli atteggiamenti che esulano da quello che può essere un atteggiamento che ricade nelle competenze di natura amministrativa, ma che esula. Se è tutto in nero ed è criminale, certo. È chiaro. Sì. A cui si associano chiaramente anche delle attività illecite. Anche è perché... chiaro che su questi fronti c'è presidio anche da parte di altre realtà. No, ma sono dati importanti, perché sa, poi parlare anche di incentivi per le aree depresse, bisogna capire quanto siano depresse queste aree. A chi dice avete scoperto oggi l'acqua calda? No, abbiamo scoperto quello che alcuni immaginavano, però se non ci sono i dati sono chiacchiere da bar, invece con i dati dell'Agenzia delle Entrate sono ragionamenti sui dati. Seconda domanda, voi avete incassato nel 2010 11 miliardi della lotta all'evasione. mi rendo conto che è un buon dato perché è in crescita, è un po' poco sui 100 miliardi complessivi. Allora, quanto pensate di incassare nel 2011? Ma innanzitutto desidero fare una specificazione, perché gli 11 miliardi, che sono peraltro forse il risultato di picco di un trend, a questi 11 miliardi vanno aggiunti circa 6 miliardi e 6 di compensazioni non eseguite, che quindi sono comunque dei quattrini in cassa per l'erario, che portano per i soli tributi erariali a 17 miliardi di incassato. È sicuramente una cifra importante, a tre mesi data diciamo non ci sono chiaramente consuntivi, il trend però è comunque un trend che consolida questi lusinghieri risultati e che ci fa sperare di poterli raggiungere ed eventualmente superare. Mi dico un'ultima cosa, direttore di Capua. Scrivono molti ascoltatori che immagino siano partite IVA, dicono ma insomma gli studi di settore sono validi, noi abbiamo incassato meno quest'anno, sono fatti in maniera imprecisa, non tengono conto di dove sto come esercizio commerciale, di come è andato il settore. E qui e unisco questa domanda che fanno gli ascoltatori a un'altra riflessione, ma secondo lei si avrebbe una maggiore efficacia nella lotta all'evasione con un redditometro, cioè non solo lo studio di settore ma andare a vedere tutto un insieme di altri valori che compongono il reddito finale di una persona? Guardi, le dico senz'altro che l'amministrazione già utilizza in maniera contemporanea e il discorso degli studi di settore, che come noto individuano una teorica congruità di quelli che sono i ricavi e non il reddito, e poi c'è attenzione invece a quello che è il reddito consumato. Partendo dal consumo è possibile verificare nel caso specifico se un soggetto che ha speso per determinate categorie di beni abbia poi presentato una dichiarazione congrua. Quindi sono strumenti che si affiancano. Sono strumenti che si affiancano. E mi sembra di capire che la vostra direzione anche con questa banca dati sia finalmente l'incrocio sempre di più, no? di elementi, di strumenti. L'unica cosa però, ad onor del vero, c'è da dire che l'agenzia con questa banca dati, che è una banca dati diciamo più generale, può individuare delle strategie sul mondo del controllo e sul mondo dei servizi. Ci sono poi degli applicativi che consentono di scendere sul dettaglio, quindi di andare ad individuare quali soggetti sono coloro che hanno, magari riferendomi al redditometro, speso più di quanto non consenta loro il reddito dichiarato. Allora o intaccano i risparmi o se no c'è qualcosa che non torna. No, ci teniamo molto a questo perché poi in realtà il fisco deve essere giusto, nel senso che deve colpire proprio laddove l'evasione è più alta e non solo sulla base della presunzione. Grazie comunque al direttore vicario dell'Agenzia delle Entrate Marco Di Capo, è veramente tutto per questa puntata di Focus Economia. Noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Da Sebastiano Barisoni intanto l'augurio di una buona serata. Radio 24, la passione si sente.